il qui presente professor Catarò si sarà guadagnato un posto in paradiso perché ha dato un'attività enorme per queste giornate e per la prossima. No, si è guadagnato all'inferno, ma ha fatto nemmeno da me. Penso che questo clima di fraterna convivialità sia comunque scatologico, sia simile della scatologia. Mi pareva che fosse il caso di portare un'esperienza di ricerca tra sociologi e teologi come contributo, un primo contributo, molti altri avranno fatto esperienze simili, penso, che potranno arricchire queste poche cose che mi appresto a dire. Il primo contributo all'interrogativo che tra i tanti interessanti messi stamattina, ma io mi focalizzerei soltanto su quello posto da Donati e poi anche da Garelli, cioè qual è la possibilità di apprendimento reciproco tra sociologi e teologi. E, su Donati ha anche detto come trasformare concetti sociologici in teologici e anche viceversa, concetti teologici in sociologici. Ecco, allora gli porterei una... Questo sollecitato anche dal professor Prandi, stamattina ne parlavamo insieme, anche perché abbiamo condiviso questa esperienza, dei risultati di una collaborazione tra sociologi e teologi in una indagine socio-religiosa appena terminata presso nella popolazione della diocesi di Mantova. Mantova è cara al cuore un po' di tutti coloro che si sono occupati di sociologia religiosa, perché in essa la prima indagine socio-religiosa, ma anche sociologica, tout court in Italia, è stata proprio compiuta in questa terra al confine tra tre province, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, quindi già nella sua morfologia territoriale e anche di popolazione riprende umori sanguigni dalla Emilia-Romagna, umori più tranquilli, quieti della Veneto e più imprenditivi, attivi, no, della Lombardia. Ecco. Un'indagine che è stata voluta dal Vescovo, Monsignor Caporello della Diocesi di Mantova, affidata all'Istituto di Scienze Religiose e coordinata dal professor Cipolla, qui presente, a nome anche dell'Università di Parma. Ecco, allora in questa iniziativa abbiamo cercato di rispondere a delle domande precise posteci dalla commissione formata dal Consiglio Pastorale Diocesano e poi portata avanti anche in sede di riflessione da alcuni teologi dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Mantova. A loro interessava in maniera particolare il concetto di coscienza di Chiesa, un concetto stimolante per una coscienza credente, ma difficilmente operazionalizzabile in termini sociologici. A noi ricordava più esigenze psicologiche di cui ci chiariamo incompetenti, o comunque qualche cosa che appartiene all'intimo, mentre i sociologi sono più allenati ad osservare i comportamenti, qualcosa di obiettivo, di misurabile. Allora il problema che siamo posti è stato questo, proprio come tradurre indicatori empirici come tali inseribili in un questionario che non è risultato molto lungo, è rimasto all'interno dei 60 minuti, che comunque ha avuto molto gradimento da parte di intervistati, nel senso che oltre il 95% l'ha compiuto rapidamente entro quell'ora prevista e con grande soddisfazione da parte della gran maggioranza di questi. Ecco, l'abbiamo tradotto in 5 domande che riguardavano l'una la Chiesa nel mondo contemporaneo, l'altra la figura del sacerdote, la terza anche cosa significa essere laici nel mondo d'oggi. Ecco, ciascuna di queste 5 domande era strutturata in 5 modalità di risposta, perché il questionario da distribuire a 1000 persone, un campionatura di 1000 persone in una popolazione di 300.000 abitanti, gli intervistatori, è stata una grande fatica retta da professor Cipolla e dottor Polettini, sono andati in tutti i 60 comuni della diocesi di Mantova, in 120 delle 168 parrocchie, quindi proprio capillarmente investito questo territorio, cosa che invece non è facile per motivi che voi capite, di costi, comunque diciamo così, queste 5 domande erano costruite in maniera tale da avere ciascuna 5 modalità di risposte, ciascuna di queste riconduceva ad una immagine della Chiesa elaborata a tavolino e che ci mostrava una Chiesa più orientata al kerygma, quindi un modello kerygmatico di Chiesa, una invece più orientata all'attività nel sociale, quindi un modello più diaconale, una terza invece più basata sopra le relazioni di comunità, quindi conciliare per esempio comunale e attivistico e il diaconale partecipativo erano da sole, avevano più del 50% di risposte possibili, mentre invece il modello carigmatico era meno, aveva soltanto una soglia di 7%, come per dire che i modelli più riguardanti un'immagine di Chiesa come società perfetta o preconciliare erano ormai, come diciamo così, più frequenti soltanto estratti âgés, direbbero i francesi, cioè di una certa età, di solito donne oltre 65 anni, casalinghe, eccetera, mentre altri modelli erano più vicini alla... erano più condivisi dagli strati medi, effettivamente più giovani, quelli che diciamo così più sensibili, più sensibilizzati dalla pastorale post-conciliare. Ecco, questa era però la richiesta della committenza, se vogliamo usare un termine un po' di mercato, ecco, era quindi una domanda orientata a fini ecclesiali e per una spendibilità pastorale, questo era giusto perché ce lo richiedeva, però al tempo stesso come sociologi ci siamo interrogati se era questo l'unico, anche se principale, fine di queste indagini, e quindi abbiamo cercato di ricostruire anche con una sensibilità il più possibile oggettiva, valutativa, eccetera, tutto lo spettro dei fenomeni. Ecco, penso che si siano anche ottenuti risultati interessanti, come per esempio l'individuare non soltanto dei credenti appartenenti alla Chiesa oppure dei credenti poco o scarsamente appartenenti, ma anche il contrario, una piccola frangia, anche se significativa, 2%, di appartenenti appartenenti ma non credenti, perché esistono anche possibilità di vedere gente che si dichiara appartenente alla Chiesa Cattolica ma personalmente non crede in Dio. Ecco. E soprattutto abbiamo cercato di interpretare questi dati, segnalati da molte indagini, di una certa discordanza tra la fiducia nella Chiesa, che è sempre molto elevata, molto di più sicuramente di partiti, sindacati, istituzioni varie, eccetera, ma anche di rilevare quello che può essere, diciamo così, la diversificazione tra scelte di credenza e scelte poi dopo di pratica religiosa, eccetera, cercando di sviluppare un modello di religiosità in grado di mostrarne le molteplici dimensioni. Questo è stato, penso, il contributo, a nostro avviso, in grado di rispondere meglio a quella domanda che è circolata anche stamattina: che cosa è la religiosità? Come sociologi possiamo soltanto limitarci ad un aspetto che forse a molti sembrerà insoddisfacente, ma che comunque è il massimo che noi possiamo fare, cioè quello di individuare analiticamente quali sono le dimensioni della religiosità, almeno nel contesto socioculturale italiano, e di misurarlo con indicatori opportuni. E quindi il modello che abbiamo elaborato e testato e verificato empiricamente è un modello che è già noto nelle indagini socio-religiose internazionali, il modello di Glock e Stark, già utilizzato in American Piety, ma negli Stati Uniti, che anche è stato ripreso da Penn e da altri in qualche indagine italiana, ma non, a mio avviso, con un adeguato supporto empirico, con un adeguato sforzo di misurazione. E possiamo dire i risultati di questa ipotesi, che poi è stata in parte anche falsificata, per esempio l'ipotesi che si possa individuare una dimensione coscienziale ecclesiale, tanto per utilizzare questo termine teologico-pastorale che ci è stato richiesto, è stata rifiutata. Non è possibile individuare correlazioni significative tra questa dimensione coscienziale ecclesiale e le dimensioni principali, che invece sono state verificate essere la dottrinale, dottrinale non solo nel senso di credenze rivolte a Dio, ad essere trascendenti, ma anche credenze in senso morale, e la rituale. Queste sono le due dimensioni principali, fortemente connesse, la dimensione dell'esperienza religiosa, che è stata anch'essa misurata utilizzando una batteria di indicatori già testate da Acquaviva e riprese a sua volta da questi psicosociologi inglesi, Hay Morrissey, ecco, è debolmente relazionata, pur essendo aneticamente una dimensione principale, rispetto alla dimensione dottrinale e rituale. Mentre invece sono molto importanti altre dimensioni che aneticamente potrebbero essere considerate secondarie, per esempio l'orientamento vitale è importante, il senso della vita, il senso della morte, ecco, non solo immediatamente riconducibile all'esperienza religiosa. Ciascuno di noi sa che l'orientamento vitale, ad esempio quello espresso da Miguel Unamuno nel sentimento tragico della vita, il sentimento della vita che aveva un Don Chicote, per esempio, molto diverso dall'entusiasmo con cui nella Mediterranea Napoli si vive e vede vivere la vita, ecco, per esempio, sono sensibilità diverse pur essendo tutte forme di religiosità, ecco. Ecco, questa dimensione vitale è molto importante, così come è molto importante l'appartenenza nelle varie, misurata secondo vari indicatori, l'appartenenza ovviamente alla comunità religiosa, oppure la partecipazione da gruppi, associazioni religiose, eccetera. Ed è importante anche la dimensione conoscitiva, perché noi abbiamo verificato che cosa la gente sa di certi termini, cosa intende con certi termini, ad esempio con consiglio pastorale, quanto è noto questo termine, cosa sanno, cosa intendono, ecco. E lì c'erano appunto nelle modalità previste una modalità giusta e due errate, sempre per poter consentire di verificare il grado di conoscenza religiosa della popolazione. Anche questa è una dimensione secondaria, eppure statisticamente correlabile in maniera significativa a queste altre dimensioni, quindi riassumendo questo schema della religiosità in contesto italiano, ecco, perché noi abbiamo ripreso il modello americano, ma con delle variazioni, perché Glock e Stark si proponevano di fare una indagine per una popolazione che ha all'interno molte chiese, sette cristiane, ma anche altre forme religiose, quindi il modello di religiosità italiana che abbiamo testato e verificato empiricamente, in parte anche falsificato, prevede tre dimensioni principali, quindi della religiosità, quindi quella dottrinale, nel senso di credenze e anche di comportamenti morali, quella rituale e più debolmente legata l'esperienza religiosa. E poi tre dimensioni analitiche secondarie, che sono appunto quella dell'orientamento vitale, quello dell'appartenenza e quello delle conoscenze religiose, anche tutto l'aspetto delle informazioni sulla Chiesa, quali quotidiani leggono, quali TV o radio ascoltano, ma soprattutto il tantam informale, i gruppi relazionali nelle parrocchie, tutte dimensioni che sono importanti per ricostruire questa dimensione complessa che è il fenomeno religioso. Poi cosa sia la religiosità, credo che i teologi abbiano molto da insegnarci, ecco, noi abbiamo cercato di tradurlo con indicatori empirici quello che noi avevamo intuito, ecco. Però se mi permettete, volevo suggerire a Martello di aggiungere un altro minuto sulla sua ipotesi della desecolarizzazione, perché interessa proprio il futuro. La domanda centrale di questo pomeriggio, citato nei quaderni, ma credo che brevemente, due minuti. Credo che sia un modo di concettualizzare quelli che sono i fenomeni ricchi di valenze ambivalenti, certe volte anche ambigue, che sono sotto gli occhi di tutti. Aumenta la conoscenza sociologica, aumenta anche il senso della complessità dei fenomeni, come tutti noi sappiamo. Ecco, però sicuramente l'ipotesi della desecolarizzazione è un tentativo di concettualizzare quello che sono i fenomeni cosiddetti di risveglio religioso che sono e si verificano nella società post-industriali avanzate, o come alcuni, e anch'io tra di essi, preferiscono dire post-moderne. Ecco, naturalmente qui si sconta tutto il significato del post-moderno non come una semplice continuazione della modernità, perché nell'ottica di progresso di cui Hegel è stato il maestro non c'è un superamento della modernità. La modernità è superamento continuo, le crisi della modernità alimentano questo progresso. Ecco, la modernità, se ha un senso, è la fine della modernità, nel senso della fine del progresso, della mitologia del progresso, di tutte le ideologie relative, questo senso di frammentazione, di intersecarsi, di ambivalenza, ambiguità che emerge sempre di più dal sapere contemporaneo. Quindi se ho tentato questo tema di secolarizzazione per individuare questi fenomeni ambivalenti ed ambigui di risveglio religioso cosiddetto, altri dicono di crisi della società moderna entro in cui si inserisce il fenomeno religioso, per mostrare che esiste una tendenza al bricolage, a ricomporsi con aspetti diversi, con esiti sorprendenti. La desecolarizzazione, a mio avviso, non è il contrario della secolarizzazione, cioè non è il ritorno al sacro, ad una società cristiana che non è riproponibile, bensì è questo pastiche, direbbe Jameson, questo mescolarsi di concetti, di simboli, di pratiche, con esiti talvolta sorprendenti, talvolta terrificanti, no? Questo rinascere dell'occultismo, della magia, del satanismo, questi simboli che vengono ripresi, è un modo con cui si ricreano identità che hanno però anche effetti, conseguenze sociali anche importanti. Quindi la desocratizzazione poi in una teoria funzionalista avrebbe anche il senso di mostrare che la differenziazione funzionale, come anche Alexander in quel libro che il professor Donati ha prefatto e tradotto in italiano, non è soltanto un fenomeno di differenziazione e di specializzazione, ma è anche un fenomeno di, anche di dedifferenziazione, cioè si distinguono e si ricompattano altre cose. Ecco, se posso ancora dire una piccolissima cosa, fin dei conti, per fare un esempio non in campo religioso, ma anche questo fenomeno che è tangentopoli nelle sue valenze etiche, non è forse una dedifferenziazione della politica nel senso machiavelliano moderno, cioè non è un ritorno dell'importanza dell'etica che pone limiti alla politica, però da questo a dire che torniamo a una società di santi, di giusti, di perfetti ricorre molto. Si può usare Tangentopoli a fini anche di colpire l'avversario politico, ma sicuramente c'è un momento in cui torna di nuovo l'etica come elemento centrale della politica. Io lo vedrei come differenziazione della politica e analogamente anche potrebbe essere applicato in senso di desecolarizzazione per interpretare queste ambivalenze, queste riscoperte di identità religiose, molte volte però anche all'interno della Chiesa, però altre volte anche al di fuori della Chiesa. Grazie Martelli, il mancato di definire l'italiano il popolo dei marinai e i santi poetici erano tutti. Chi è che vuole intervenire? Donati. Non vorrei intervenire perché mi riservo di farlo dopo. Volevo solo dire, in rapporto a quello che ha detto Martelli, è che si nota anche una, da parte dei sociologi, un'istanza di rintracciare non solo, diciamo, queste nuove forme di bricolage, pastisse, eccetera, occultismo, eccetera, a cui ha fatto riferimento Martelli, ma anche proprio il bisogno di uscire da quel processo che Weber ha chiamato di disincantamento rispetto al mondo. Io voglio ricordare che lo stesso Alexander, sociologo, neofunzionalista, quindi con tutti i crismi, diciamo, tipici della sociologia, 2 anni fa ad Amalfi fece una relazione nella quale sostenne la tesi che nel mondo contemporaneo c'è una tendenza a risacralizzare, nel senso preciso di un bisogno di riesprimere nei fenomeni sociali, nel sociale, l'incantamento verso il mondo sociale. Quindi benissimo con quello che ha detto Martelli, ma io credo che ci sia ancora di più, ancora di più. E questo è qualcosa che va, diciamo, dato anche ai teologi come un fatto su cui riflettere. Io mi chiedo, insomma, per tradurre in una domanda, sociologia e teologia possono ritornare a riflettere insieme sul concetto weberiano di disincantamento nel momento in cui osserviamo una società che appunto interrompe con forti discontinuità un processo di razionalizzazione intesa appunto come disincantamento e torna a qualche cosa che non è solo occultismo, magia, settarismo di vario genere, che indubbiamente esiste, ma che manifesta anche qualche cosa di più, un bisogno di ridare un senso alle cose, ai fenomeni sociali, alle relazioni, ai simboli, che in qualche modo portano la religione a ritornare, a rientrare, direi, nell'etica, nella politica e nel sociale, dedifferenziando appunto le loro relazioni. E oggi noi sentiamo questo enorme bisogno di ritornare a un senso, o comunque dare un senso, che non è detto per carità che sia tradizionale, anzi sarà certamente diverso da quello tradizionale, ma che però rifondi, per così dire, di un qualche fondazione nuova alla norma etica, alla scelta politica, alla regola sociale. Ecco, non c'è solo cultismo, cioè fenomeni, diciamo, di una religiosità che potremmo chiamare molto spontanea, provvisoria, contingente, irrazionale, eccetera. C'è un'istanza che è qualcosa di molto più sistematico, molto più profondo e che indica una chiusura con l'epoca moderna, cioè un salto di discontinuità. Ecco, io credo che su questo, per esempio, sarebbe interessante avere il parere dei teologi. Cipolla, poi Chiarino. Io vorrei tornare, nonostante i pareri contrari del professor Bugalassi e del dottor Capraro, sul tema che vorrei brevemente sviluppare organicamente, una riflessione iniziale, insomma, un po' ex abrupto, un po' iniziale, sul problema del rapporto tra sociologia e teologia, o tra teologia e sociologia, anche se naturalmente l'unica cosa che so fare è vederlo dal versante della sociologia. Noi sappiamo che c'è una tradizione nutrita di forme di rapporto che possono essere rimandate a quelle più generali del rapporto tra scienza e filosofia, di cui tutto sommato, all'interno del quale tutto sommato possiamo ritagliare questo rapporto. Abbiamo l'opzione fondativa, quella in cui la teologia fonda la scienza religiosa, abbiamo quella kantiana, insomma, abbiamo l'opzione rovesciata, quella hegeliana, in cui tutto sommato si assiste al processo inverso di un assorbimento delle scienze nell'ambito della dimensione teologica. Abbiamo l'opzione neopositivista, nella quale la filosofia perde senso e viene, come tutte le metafisiche, comunque espulsa e priva di significato, è insensata e quindi improponibile. Resta solo la scienza, quindi non la razionalità che non è controllabile, ciò che non è controllabile perde di significato, non ha senso, resta solo il controllabile empiricamente, quindi solo la sociologia. Lasciamo stare l'irrazionalità della mistica, e quella addirittura viene scartata ancora a priori. Vi sono posizioni di commiato da parte della stessa teologia, nel senso che comunque vi è una autoriduzione di ruoli per dare più spazio alle scienze sociali. E così via, via tutta una serie di posizioni. Personalmente invece ritengo, in questo sull'onda della posizione popperiana, ritengo che perché esista una scienza religiosa comunque deve esistere una teoria teologica, una filosofia. La metafisica non viene in qualche modo cancellata dalla scienza religiosa, ma non si può fare scienza senza qualche riferimento alla metafisica, senza qualche rapporto con la metafisica, se non che nessuna delle due fonda l'altra. Vi è una legittimazione piena della razionalità non controllabile empiricamente e vi è una legittimazione piena della razionalità. Entrambe sono due autonomie relative reciprocamente funzionali. In questo sa, nulla può essere ricondotto ad autonomia assoluta in questo posto, in questa mappa del sapere o della conoscenza, o questa mappa gnoseologica. Ora, se è facile o può essere sufficientemente comprensibile cosa può dare la sociologia alla teologia o alla riflessione razionale sull'esperienza religiosa, ancorché non verificabile empiricamente, che è la riflessione teologica, può essere, e quindi che dà l'evidenza empirica, i risultati, una conoscenza più raffinata, più propria, e quindi la possibilità di riflettere sull'esperienza religiosa avendo una base empirica più rigorosa su cui riflettere. Cosa dà o cosa può dare la teologia alla sociologia? Nel pluralismo che io do per scontato delle varie posizioni, io non ritengo che non sarà mai possibile ipotizzare che non ci sia un pluralismo dentro il sapere sociologico e che non ci sia un pluralismo paradigmatico dentro il sapere teologico. Questo lo do per scontato, così come quando uso il termine religione, lo uso in termini di astrazione, così come non parliamo di politica, ma diciamo sociologia politica, così come non parliamo di economia, di sociologia delle economie, ma diciamo sociologia economica, io personalmente quando parlo di religione la considero a livelli di astrazione, quindi come ciò che lega a livello astratto tutte le forme di religione, quindi ritengo molto eccessivamente relativistico gli altri termini, perché assimilo la cosa alle altre tradizioni sociologiche, quindi capisco che ci può essere un rischio nell'utilizzare il termine sociologia della religione, nel senso che c'è una sola religione, ma ripeto, la mia posizione è quella di muoversi a livello di astrazione, non quindi identificandola sul piano sostantivo. Allora dicevo, cosa può dare, cosa può venire da una riflessione di questo genere alla sociologia? Intanto sicuramente un'accentuazione della concorrenza e della competitività. Sappiamo bene che le grandi teorie hanno sempre prodotto in sociologia prospettive nuove, spazi nuovi e quindi una logica di questo genere che è intrinseca al sapere scientifico. Quindi il monoparadigma è chiaramente una chiusura di queste prospettive, mentre più posizioni teologiche fuori dalla sociologia portano dentro questo. Secondo, un'apertura al mondo. Sicuramente la teologia, proprio perché svincolata da problemi di controllo empirico, porta al sapere sociologico più prospettive euristiche di quelle che riusciamo ad analizzare, quindi apre il mondo e sappiamo quanta ricchezza è derivata finora al sapere sociologico e alla scienza da queste prospettive che nascevano in chiave filosofica e che poi venivano in qualche modo portate dentro, senza alcuna dipendenza, ribadisco, in una logica di autonomia relativa. Ancora, una legittimazione e una forma di controllo esterno del lavoro sociologico, perché è fuori discussione che se esistono due reciproche autonomie funzionali reciproche, evidentemente vi è una legittimazione dell'una rispetto all'altra nelle mappe generali del sapere. Ancora, una spinta all'innovazione nello stesso tempo a più luoghi dove avviene il controllo del lavoro scientifico, quindi a una impossibilità della chiusura della scienza dentro se stessa. Quindi alla chiusura, alla negazione di ogni autarchia e alla negazione di ogni assoluto a se stesso. L'arrivo di nuovi punti di vista ha anche una funzione retroattiva, un recupero della storia, nuova luce su vecchi fatti. La metafisica legge anche risultati scientifici in chiavi nuove e li propone in nuove vesti. Sappiamo quante cose ha inventato la scienza, che non c'erano, ma il famoso flogisto si porta sempre come esempio in questi campi. Ancora una sorta di considerazione di tipo metasociologico che ridisegna spesso i confini fra scienza e pseudoscienza, che non sono assolutamente confini definiti, non è che il rapporto teologia e sociologia è un rapporto statico. Se avremo tempo, se sarà possibile riflettere, se questa strada tracciata andrà avanti negli anni, mi auguro che nelle varie esperienze che l'Istituto farà, mi auguro che andando su temi più specifici e superate le prime esigenze di collegamento epistemologico, ritengo che sarà molto utile capire ci sia una riconsiderazione continua di ciò che è scienza e di ciò che può essere teologia, o di ciò che esce dalla teologia e entra nella scienza, ciò che la sociologia abbandona e diventa spazio per la... Ancora, la teologia si può validare per via non scientifica, la scienza non può essere un assoluto e quindi non può coprire tutti gli spazi e la validazione può essere nella vita pragmatica, nelle cose, e in questo senso la teologia può sfidare la scienza senza passare attraverso la scienza. E ancora, infine, nuove sistemazioni di campo, perché la riflessione sulla rete di relazioni che riguardano ciò che è scienza, ciò che è e quindi ciò che è razionabile e controllabile empiricamente, ciò che è razionale e non controllabile empiricamente e ciò che è irrazionale, la mistica, lo spazio della mistica, che sappiamo quanta importanza ha, anche se non come materia, ma come prassi della nostra vita, evidentemente tutto questo viene ridisegnato da nuove sistemazioni di campo. Allora, se questo può stare in piedi, è evidente che questo ha alcune conseguenze, ripeto, prima conseguenza. Non può esistere un'auto dell'auto dell'auto che diventa auto, auto, auto, la posizione lumaniana in cui l'auto si costituisce strutturalmente attraverso l'etero e l'etero si costruisce strutturalmente attraverso l'auto. Tant'è vero che quando Maturana e Varela devono costruire il loro autoriferimento espungono l'identità di genere da questa posizione, perché evidentemente la sessualità, la produzione della vita è a due, non a uno, e quindi essendo a due nella fase originaria evidentemente questo gli rompeva le uova nel paniere, e quindi questo viene espulso dalla costruzione dell'identità costituita sull'autoriferimento e sull'autoreferenza. L'autoreferenza ha senso in quanto esiste l'eteroreferenza e la costruzione di questi due elementi è reciproca. Questo, detto molto, poi casomai ci tornerò su, questo credo sia molto importante, perché credo che la sociologia trovi il suo senso in due dimensioni. In una dimensione che è una dimensione, come dire, strutturale, quella della diseguaglianza, vi è qualcosa che è oltre la relazione non si può fondare su se stessa, altrimenti diventa a sua volta un'autonomia assoluta, cosa che io ripeto non condivido. Credo che anche la relazione si struttura su strutture, su vincoli, anche essa su altro da sé, e può essere assunta come categoria euristica centrale, ma in una rete di altre cose che la legittima a sua volta, e se stessa non può farsi assoluto a se stesso. Ora, dicevo, credo che la sociologia, e mi domando se anche la teologia, si legittimi in quanto presuppone nella sua funzione il principio della diseguaglianza, da superare, da legittimare, ma come fatto cruciale che comporta per lo stare insieme il principio della tolleranza. Allora, cos'è l'epistemologia della tolleranza? Questo è il punto fondamentale. Ripeto, secondo me l'epistemologia della tolleranza, detto molto rozzamente, capisco che non è che posso andare oltre, bisognerebbe fare una relazione per poter andare qualche traccia, presuppone il fatto che ci sia un meccanismo empatico che permette di cogliere l'alterità dal suo punto di vista e quindi dal punto di vista delle altre categorie concettuali. Io ne faccio una categoria puramente epistemologica, non la fondo fuori dall'epistemologia, non mi interessa fondarla a quel livello, può essere fondata come hanno fatto altri fuori da questo livello. Credo che questa però sia una nostra capacità, una nostra possibilità, e che sia l'unico modo per stare insieme in una comunità scientifica di questo genere. Quindi queste due dimensioni vanno portate dentro come componenti sostantive e metodologiche del sapere. Tutto rinvia in qualche modo, quindi anche ad altro da sé, non vi è la possibilità di una fondazione unica. Questo cosa vuol dire? E chiudo. Non vuol dire affatto una concessione al relativismo, lo dirò se poi faccio un altro intervento e spiegherò perché, anche nella fase progettuale. Vuol dire semplicemente che in qualche modo il rapporto sociologia-teologia è una necessità. Non può esserci imperialismo reciproco, non può essere trasferimento monoparadigmatico, è una necessità di connessioni tra di loro di tipo pluralistico. Chiudo solo, vorrei sottolineare del discorso fatto a livello di religione, il problema è sul futuro della religione, vorrei sottolineare l'importanza di introdurre all'interno dello studio del fenomeno religioso, sapete che il processo di secolarizzazione ha portato a un impoverimento sostanziale degli studi sul fatto religioso, che sono studi molto costosi e che sono stati finanziati molto meno di quello ad esempio sui consumi, per cui sui consumi utilizziamo 740 indicatori. Poi una ricerca come quella multiscopo dell'Istat o quella sugli hard, sui giovani, supponiamo di interpretare un fenomeno di tale complessità con due o tre indicatori. Credo pertanto che ipotizzare la multidimensionalità, costruire una rete fittissima di indicatori per capire un fenomeno così complesso, sia uno dei percorsi da fare necessari per poter capire quale sarà il futuro della religione, che comunque non è un ritorno del passato, un re qualcosa, è comunque una dimensione nuova che va trattata come tale. Adesso dovrei citare Martelli, che sta lavorando su queste cose, che mi ha passato un pezzo che mi è piaciuto molto, ma questo sarà oggetto della presentazione di un'altra sede del libro, e cioè a Firenze il giorno 10 marzo. Grazie. E con ciò ci può lasciare anche dato l'appuntamento per il futuro, prossimo o remoto, Trentin, Terrin, poi Trentin. No, comunque volevo ringraziare il professor Cipolla del suo intervento, e se è stato invitato qui è proprio per la sua competenza epistemologica, anche per questo motivo è stato scelto come chairman dell'incontro di questa mattina, quindi era più che atteso. Del resto il convegno stesso prevede una relazione a due voci sulla fondazione teoretica del confronto teologia e sociologia. Dunque io mi sono sentito molto d'accordo con quello che è stato detto circa la desecolarizzazione di Martelli, mi pare. Martelli. Sì, mi sembra un tema che andrebbe molto approfondito, però volevo prima problematizzare un concetto, cioè quello dell'oggetto religione, perché mi pare che lì le indagini che sono state fatte anche a Mantova, cioè hanno creato una tabella di domande, però non riuscendo davvero a inquadrare in che cosa sia religione, ma cercando così via via. Difatti ho scritto qui che si parlava anche di orientamento vitale, no? Di questi problemi del senso della vita, e poi le domande erano sulla Chiesa, però in particolare, cioè qui ci sono problemi che riguardano il cristianesimo, il cattolicesimo, la Chiesa e la religione. Sono tutti insieme questi, sembra, e uno sovrapposto all'altro. Mi chiedo se non sia il caso di chiarire e di cercare di vedere, perché questo oggetto in qualche modo non è avvicinabile in maniera così complessa com'è. E mi chiedo se il rapporto alla teologia stessa non siamo altrettanto in difficoltà, perché la sociologia si mette a confronto con la teologia o si mette a confronto con una parte della teologia, che è piuttosto, come dicevamo prima con Trentin, la teologia pratica, cioè la pastorale in fondo, come si vive la fede, come è vissuta. E dunque questo come problema, io direi, che dovrebbe essere chiarito, perché in realtà chiarito non è. E mentre i miei presupposti sarebbero più di conoscere l'esperienza religiosa in quanto tale, indipendentemente da una caratterizzazione cattolica, cristiana o ecclesiale, ma più la religiosità, mi sembra che invece ricorrono tante altre tematiche che non sono in linea con questo. Invece ritorno al secondo tema che io ho trovato molto importante, questo della desecolarizzazione, di questo nuovo incantamento, che mi sembra importante. E perché qui i sociologi allora non tirano anche loro le deduzioni semplici, dicono andiamo a vedere dove c'è questo nuovo incantamento in maniera particolare? È proprio nel movimento New Age. Nella nostalgia, in questa nostalgia di ritorno, in questo romanticismo, come lo chiamo nel libro sul New Age, in questo ritorno a una visione ecologica, un recupero di tematiche meditative, tecniche psicosomatiche, dello fare yoga, dello stare insieme attraverso fattori esperienziali. Ora mi sembra che i sociologi dovrebbero mettere a punto questo e non soltanto trattarli a margine, come dire, questo per me diventa un problema. Ecco, perciò mi pare che sia importante vedere appunto questa desecolarizzazione in questa fase che io chiamo appunto il New Age, come fine della modernità, giustamente come un bricolage, dove a mio avviso si perde l'oggetto religioso. Per me il grande problema è quello, che non c'è più un oggetto religioso unitario, ma tutto è parcellizzato, tutti gli oggetti religiosi, e c'è proprio il processo di bricolage. Ecco, naturalmente alcuni studiosi sociologi so che hanno tradotto questa desecolarizzazione in una secolarizzazione ancora più selvaggia. Ho presente Brian Wilson, se non mi sbaglio, dice che questa è l'ultima coda della secolarizzazione, questo individualismo religioso che si fa presente nella società di oggi. Però a mio avviso invece sarei più del parere che si tratta invece di una nuova religiosità, ma allora bisogna studiare queste altre forme di religiosità, staccandosi per così dire dalla religiosità classica, quella del cristiano che va a messa in chiesa, e cercando di studiare fenomeni appunto come la pranoterapia, tecniche psicosomatiche, lo shiatsu, la meditazione, e vedere fino a che punto anche questi sono fenomeni religiosi. A questo punto io capirei di più allora un sociologo che mi dice, ecco, la nuova religiosità si presenta con questi altri aspetti e con questi altri volti. Grazie. Grazie, professor Torrini. Dottor Trentini. Professor Trentini? Eh? Professore. Professor Trentini. Un Trentino che sta a Trento, un problema. Un Trentino a Padova. Che non è di Trento, è di Padova. L'intervento introduttivo del professor Burgalassi mi ha fatto venire in mente che anch'io ho letto molti anni fa un libro di questo sociologo, antropologo, Galen, intitolato Moral, Ipermoral. Io sono moralista e quindi il libro mi ha incuriosito e ho fatto anche molta fatica a leggere in tedesco. Per quello che ho potuto capire e che ricordo, mi sembra che questo autore metta sotto accusa la società tecnico-industriale, accusandola di ipertrofia morale, cioè di sovraccaricare gli individui di una responsabilità morale individuale senza dotarli di quei meccanismi o standard di comportamento che dovrebbero, analogamente agli istinti degli animali, facilitare diciamo, le loro scelte. Io non entro ovviamente nel merito di questa teoria sociologica o antropologica, però a me sembra che Galen ponga un problema che è tuttora reale. e che riguarda in parte sia la pastorale, a cui si accennava, nel suo aspetto operativo, pratico, non soltanto di riproposizione di una fede ideale distaccata dalla vita, che non si incarna quindi e non alimenta di motivazioni, diciamo, il comportamento concreto dei fedeli. E sì, più in generale, come ricordavo stamattina, il problema etico, a cui accennava il professor Donati, che a me sembra un problema attuale nella misura in cui ripropone l'eterno problema della norma morale, se è formulata bene o se è formulata male. Cioè, se questa norma riesce ad articolare, a coniugare i valori con i comportamenti e i comportamenti con i valori. E allora io penso che questo ambito o pastorale oppure etico che analizza i comportamenti possa diventare un terreno di confronto e di dialogo e anche di riformulazione di certe categorie, come è stato dimostrato, da parte dei teologi e anche da parte dei sociologi o di altre scienze umane. Perché io constato nella mia esperienza che quando cerco di formulare una norma morale, sono costretto a fare due tipi di analisi. Una di tipo assiologico, riguardante i valori, di cui mi sento, diciamo, competente come filosofo, come teologo. E una di tipo empirico, fattuale, riguardante, diciamo, i contesti psicologici, sociologici, antropologici, di cui io non mi sento competente. Quindi o sono un sociologo che lavora secondo le regole della sociologia, lo faccio, oppure non sono un sociologo, allora mi affido ai competenti o utilizzo i risultati dei loro lavori. In ogni caso, questo mi sembra un ambito molto interessante di convergenza e di studio, proprio per superare quello scarto che c'è tra ideali che non incidono più sulla vita e, diciamo, comportamenti che non si alimentano più a una realtà assiologica, cioè ricca di valori com'è, e che dobbiamo non creare operativamente, ma scoprire dentro all'essere stesso dell'uomo, dentro all'umano o alla relazionalità in quanto rapporto che ci fa scoprire, al di là della natura, dei meccanismi naturali, nostre capacità di essere persone capaci di entrare in relazione con ogni essere vivente, non solo umano, ma direi anche extraumano. Grazie, professor Tronchi. Abbiamo qui in sala il professor Donzani, che è direttore delle Magna Pars, di quello che sta facendo qui. Lo inviterei, direttore del corso di scienze religiose, lo inviterei a volere intervenire e portare il suo saluto. Biblista, dov'è? C'è, è lì, sì. No, è anche un biblista di fama nazionale e internazionale. No, ma ha sempre una riserva escatologica nel suo cuore. Una riserva escatologica. Questo è uno scherzo da prete. Sì, abbiamo delle riserve di tutti i tipi, quelle che questa mattina avevo 3 ore di scuola e non c'ero. E quindi non so di cosa si è discusso. Sei Virgil di Sergio Incognito e di Codardo il Traio. Come un biblista, che dire, l'amico Don Antonio Marangon sa che i censimenti nella Bibbia non fanno bella figura, però dipende dalle modalità e soprattutto dal fine con cui vengono fatti, e quindi direi è così anche. Appunto, però non fu censito, è rimasto fuori. Il primo censimento di Davide, sappiamo tutte le conseguenze che ha avuto. Ma, prego. No, colga le provocazioni. Dicevo questo per dire che l'incontro fra le due scienze, teologia e sociologia, penso che non soltanto utile, ma era auspicato dal nostro istituto da anni ormai, penso da un decennio, proprio perché non nascano queste prevenzioni così a base di slogan, a base di battute, con le quali uno liquida l'altro e l'altro perciò non entra in colloquio. Ma veramente per quanto riguarda il dibattito attuale, non so cosa mi ha chiamato in causa adesso, perché sono appena venuto, che sono 5 minuti, hai visto che sono entrato tardi, no? No, era solo per dire appunto che... L'unica cosa, leggendo la... L'abbiamo letta, ecco, e c'è quell'aspetto... Quella di Severino di Anis, ma può darsi che l'abbiate anche già letta. Sì, però ecco, l'unica citazione biblica mi piace fino a un certo punto. Ecco, nel deserto non ci andate e in casa non ci credete, però Cristo invita anche a leggere i segni dei tempi, a vedere il fico che germoglia, insomma. Però se avete già discusso, io l'ho letta ieri sera, e di questa citazione biblica sono rimasto così un po' perplesso, perché probabilmente di anni ci pensa più a deserti mitici. L'invito a leggere i segni dei tempi, l'invito a far memoria. Lei poco fa c'era quando ha citato la memoria della messa. Noi facciamo memoria del passato, ma io mi interrogo sempre su una piccola domanda. Quando diciamo fate questo in memoria di me, se di questa frase dovessimo fare uno sviluppo, fate questo affinché Dio faccia memoria di me, o voi uomini facciate memoria di me? Chi dei due fa la memoria? Tutti e due, probabilmente. Probabilmente tutti e due, perché nel canone della messa è noi undet memores, però dopo di continuo ricordati di Dio. Quindi il passato che influisce sul presente, addirittura il passato che si rende attualmente presente, ma questo come prolessi, come anticipo del futuro. E così proprio, sono disordinato perché sono stato preso a... Se noi leggiamo le lettere di Pietro, penso che tutte e due le lettere di Pietro, questo cristianesimo pratico di Roma, presente nelle due lettere di Pietro, è l'uomo che si interroga come deve vivere l'oggi, sapendo che su di lui ci sono due forze che influiscono. C'è il passato, quindi l'origine, il battesimo, eccetera, ma c'è il futuro che altrettanto lo attira, che altrettanto lo sollecita. E spinto da queste due forze, passato da un lato, futuro dall'altro lato, ma entrambe presenti, lo obbligano, questo cristiano che vive in Roma, a confrontarsi con l'impero, a confrontarsi con un laicismo pratico, o forse meglio con un ateismo pratico, come era quello probabilmente della Roma del primo secolo, e quindi passato e futuro che aiutano il cristiano a vivere il suo oggi. Ma vedo che già qui vado contro Terrin, il quale diceva di allargare gli orizzonti a tutte le dimensioni religiose. Ma io veramente chiedo scusa perché non so perché mi ha chiamato in causa. Ma è una felice scusa, perché effettivamente è così. Io sono direttore del corso di scienze religiose, non dell'istituto di scienze religiose. Sì. Le due cose le dovevo leggermente. E comunque, scherzando e ridendo, lei ha detto una cosa che può essere estremamente utile ai programmatori dell'incontro. Perché l'incontro è sociologia e teologia con riferimento al futuro. Lei invece ha detto che un riferimento non può non essere duplice al passato e al futuro. E il che proporrebbe la questione del tempo in teologia e in sociologia, cioè un punto di riflessione comune che probabilmente verrebbe sviluppi impensati, in quanto i teologi hanno molto approfondito il senso del kairos, il senso della parousia, eccetera, mentre i sociologi sono rimasti alle previsioni a breve, e quindi questo qui è un altro punto di intersezione. La ringraziamo comunque per la sua presenza. Io mi scuso perché no, venga il Severino Vareschi. Tra i grandi. Sì, beh, il professor Severino Vareschi insegna storia della Chiesa al seminario e anche qui all'istituto, quindi entriamo nel campo storico, ecco. Ma dunque io prendo il coraggio di intervenire perché mi sembra che la cosa si faccia più di ricerca, diciamo. Certo. E così io ho più delle domande che altro su questi temi. E mi sembra che ci sia la difficoltà a trovare un terreno comune, come è stato detto anche stamattina. Il professor Garelli ha fatto un primo elenco di possibili oggetti di studio, mi sembrano oggetti di studio, che sono proposti ugualmente alla teologia e alla sociologia. Mi domando quale possibilità ci sia per la teologia dogmatica, ad esempio, di entrare in questo discorso, no? Ancora, come infatti il bel dossier, proprio mi permetto di dirlo, è proprio bello, di Capraro, cita Zulener e questi pastoralisti. Ecco, lì mi pare esplicitamente individuato quel terreno lì come un possibile terreno di incontro e di lavoro insieme tra teologia e sociologia. Ma negli altri campi dove stanno? E anche il metodo, ecco, stamattina si è lavorato molto sulle questioni di metodo, diciamo. Ma mi sembra ancora molto aperto, insomma, il discorso metodo teologico e metodo sociologico, non capisco ancora dove possano convergere e costruire qualcosa in comune. Anche per quel che riguarda la storia della Chiesa, ad esempio. Cioè, per certi versi mi pare che la teologia ha sempre pensato di poter interpretare il mondo e leggere il mondo, ad esempio in termini di storia della salvezza, no? Con categorie teologiche. E non ha mai sentito molto fortemente, e non so se lo sento ancora oggi, il bisogno del contributo della sociologia, no? È una scienza molto giovane e la teologia cristiana è da 2000 anni che pensa di poter interpretare il mondo con le sue categorie però indubbiamente teologiche, quindi non so quanto compatibili con categorie e metodo sociologico, e mi sembra che ciò che non viene fuori dalla teologia cristiana sia il bisogno della sociologia per interpretare e per capire, e pure per prevedere, mi pare. Anche la storia della Chiesa, ad esempio, come disciplina, no? La storia della Chiesa pensa di poter capire la Chiesa e dire qualcosa sulla Chiesa in quanto fa la rassegna delle sfide che i tempi, le situazioni hanno posto alla Chiesa e di come la Chiesa ha risposto, anzi si è fatta, è stata, in quanto confrontata con delle sfide, no? E così la storia della Chiesa pensa di poter dire qualcosa di essenziale. Anche il momento primitivo, normativo, è una tra le tante possibili sfide che una situazione pone alla Chiesa, no? E così nel seguito non sono meno dignitose le condizioni, i paradigmi del 1500, del 1800 rispetto a quello del 30 e del 70 d.C. Perché sempre la Chiesa si realizza in quanto risponde a delle sfide. Ecco, tutto questo mi sembra un sistema che ha una sua logica, che ha una sua plausibilità, un suo funzionamento, e non capisco ancora come si può associare e lavorare insieme con la sociologia. Cioè, mi sembra che è quasi tutte queste discipline sono un po' una società sperfetta, ognuna per conto suo, che ha i mezzi per dare le risposte alle domande che si pongono, no? Il professore mi fa segno di no. Ecco, lo stesso era questo che... Sì. E beh, ci sono anche le possibilità diverse. Professore Prandi. Sì, grazie. Sì. Prandi, poi l'amico De Sandre. E poi Marangon. Poi Marangon. Sì. Io volevo fare alcune domande ai teologi, chiedendo anche una risposta, perché probabilmente chi non è teologo è facile che sbagli nei linguaggi, certo, nella terminologia, nella... Certo, forse. Volevo soltanto prima dire, la domanda che aveva fatto Terrin, è una risposta non in tipo conflittuale, la ricerca fatta a Manto, probabilmente loro, i due, io ho fatto la parte storica, quindi sono i due metodologi che ci hanno lavorato su una richiesta specifica del Consiglio Pastorale, e lì c'è stata una feconda, direi, collaborazione fra teologi e sociologi, perché i teologi hanno offerto dei termini, un linguaggio, una serie, un elenco di, diciamo, di griglie di lettura sulla quale poi i sociologi hanno lavorato. Direi che, senza fare discorsi di grande respiro, lì probabilmente si è quagliato qualche cosa che poi si vedrà in che misura ha funzionato, in cui però non soltanto il tema dell'ecclesialità, ma anche il tema della religiosità, quello che tu dicevi, poi è emerso in seconda istanza, ma poi anche in modo abbastanza preciso, ecco. Io credo che probabilmente è su queste ricerche qui specifiche che il dialogo procede, più che sui massimi sistemi su cui a volte ci rompiamo la testa, che sono importanti, fondamentali, ma che insomma potrebbero essere anche sterili, ecco, nel dibattito. Ecco, io volevo fare una domanda, alcune domande. Se è vero che nel dopoguerra, specialmente dal concilio in poi, la teologia ha, come dire, subito una svolta, i cui maestri, i cui referenti sono stati Barthes e Bonhoeffer, quindi una lettura radicale del messaggio, estremamente importante, recupero di testi, recupero delle fonti, che ha avuto, a mio parere, qualche costo. Per esempio la separazione della teologia dalla storia e dalla società, per certi aspetti, sul piano analitico. La famosa questione del rapporto fra fede e religione. Ecco, chi opera in un ambito di ricerca storico, sociologica, eccetera, fa fatica a cogliere questa differenza, perché non immagina una fede se non radicata in una serie di comportamenti che, in quanto sono storicamente, sociologicamente, antropologicamente dati, non possono essere altri che comportamenti religiosi. Quindi ecco la necessità magari di un dialogo su questo rapporto, che è visto da chi ha un referente barthiano in termini conflittuali e che il sociologo probabilmente non intende fino in fondo, perché ciò che coglie nell'analisi religiosa è ciò che coglie, insomma, non può cogliere la fede se non attraverso la storicità, che è poi la pelle che ognuno abbiamo e attraverso la quale la fede non può non passare. E allora, ecco, io volevo fare un passo avanti per fare delle proposte. Io ho l'impressione che il nostro dialogo abbia oggi un carattere un po' etnocentrico o eurocentrico. C'è una questione di fondo, che è la questione dell'ideologia. Mi riferisco ad esempio alla teologia della liberazione. Perché la teologia della liberazione è nata in un certo contesto, non è nata nel centro Europa, non è nata in Germania, è nata in Brasile, è nato in un contesto che ha caratteri specifici, che attraverso soltanto quei caratteri è possibile leggere e la teologia della liberazione e il modo con cui la teologia della liberazione utilizza per esempio il tema dell'esodo, il che vuol dire l'utilizzo dell'ideologia, ma anche in senso positivo. E voglio fare un'altra questione. In un convegno che c'è stato a Spalato sulle religioni e la guerra, altro tema che sarebbe estremamente interessante, perché questo è un tema uno dei temi fondamentali del rapporto fra le religioni, le teologie e la guerra, un tema che almeno la guerra del Golfo in cui si sta impegnando profondamente. Una delle accuse, chiamiamole accuse, però occorre vederle storicamente, sociologicamente e anche teologicamente, che i teologi e anche i biblisti croati facevano nei confronti dei serbi, per esempio, è che la Chiesa serba si chiami Chiesa, non Chiesa ortodossa, ma Chiesa serba ortodossa. Cioè vuol dire un'identificazione in termini etnici, culturali e strutturali tali per cui la Chiesa in quella condizione la sua riserva escatologica la manda a quel paese e quindi non è in grado di testimoniare contro la guerra e segue le vicende della guerra fino in fondo identificandosi. Ecco, se allora su questi temi, che sono temi caldi, temi complessi, temi tragici, ad esempio, allora si potesse fare un dialogo in cui i termini teologici, il radicamento etnico, la contestualizzazione antropologica, storica, eccetera, vengono a confrontarsi, allora probabilmente questo dialogo potrebbe essere anche più fecondo. Ecco. Ringrazio Prandi, la parola a Marangon. Ad Alessandro, pardon. Brevemente, io ho cercato di ripescare in quattro punti circa alcune cose che sono state dette stamattina, anche se non sempre appunto si è potuto costruire un dialogo, diciamo, costruttivo. Mi pare un primo punto che è sorto dalla diatriba di stamattina tra Terin e altri, ma che mi è venuto in mente con più chiarezza proprio quando ha parlato Marangon, è che proprio l'ermeneutica ci ha insegnato che un testo può essere letto da qualsiasi soggetto, solo che quel qualsiasi soggetto che legge quel testo, nell'interpretare quel testo, ha il dovere di fare una corretta esegesi del testo, quindi cercare la correttezza del linguaggio, l'intenzione dell'autore del testo, il contesto culturale in cui quel testo è stato prodotto. Allora, io credo che in questo senso sia necessario sbloccare il discorso per cui si afferma che si può fare una corretta sociologia della religione solo se si ha esperienza religiosa. E proprio è l'ermeneutica che l'esige, è la logica dell'ermeneutica, che non è che l'ermeneutica regali l'interpretazione al soggettivismo assoluto. L'ermeneutica anzi vincola l'interpretante a lavorare sul testo da interpretare e quindi sull'autore anche che ha scritto il testo. Quindi mi pare che questo sia proprio, anzi dia il senso di come ogni interpretazione corretta e argomentata sia un'opera aperta, titoletto del libro di Umberto Eco, e che non svincola appunto da regole. Allora, questo mi pare una cosa però estremamente importante e anche in qualche modo rasserenante, e che dà ad ognuno la responsabilità della lettura e delle sue argomentazioni. Seconda cosa, io credo che anche qui, sia per la sociologia che per la teologia, sia un problema anche un po', come si può dire, certe volte anche di idiosincrasie. Ci sono alcuni sociologi che hanno un'idea della sociologia sostanzialmente come una disciplina perfettamente autoreferenziale, perfettamente autosufficiente. Ci sono dei teologi che hanno un'idea della teologia come una disciplina perfettamente autofondata e autosufficiente. Ci sono dei sociologi e dei teologi che invece hanno la sensazione che tanto la sociologia che la teologia siano delle discipline limitate, a razionalità limitata, e quindi che abbiano bisogno di un'apertura, debbano rifiutare una sindrome di onnipotenza. E questo credo sia un problema che proprio è stato discusso anche alla Facoltà Teologica di Padova, nel confronto tra varie correnti teologiche. Questo credo sia un problema molto grosso, che differenzia per esempio la sezione di Padova della Facoltà di Teologia da altre sezioni teologiche, che differenzia l'Istituto di Liturgia Pastorale di Padova dal Sant'Anselmo, in cui il riferimento liturgico è diversamente legato al problema delle scienze umane cioè del posto dell'uomo e della donna nella liturgia. Allora io credo che dobbiamo anche in questo prendere posizione, nel senso che ovviamente, per esempio, io non sono a favore di discipline che si sentono onnipotenti, non sono a favore di discipline che si sentono totalmente autosufficienti, ma sono invece per discipline aperte, per discipline che hanno il senso dei propri limiti e quindi non per discipline deboli, ma per discipline che sentono di dover moltiplicare la ricerca e il dialogo. Terzo punto. Il problema è che ormai molti di noi sociologi sono convinti che una grossa parte del loro mestiere sia di analizzare, come hanno detto Bergel, la costruzione sociale della realtà. Quindi anche la costruzione sociale della religione. Quindi anche la costruzione sociale della teologia. Perché anche i teologi sono intellettuali collocati in certe istituzioni che hanno certe retribuzioni e certi vincoli, che hanno una loro storia, che hanno una loro formazione, eccetera, eccetera. Io credo che la sociologia, i sociologi, preferisco dire, i sociologi facciano un loro buon mestiere quando sanno argomentare in maniera pacata e con il senso della loro razionalità limitata questa costruzione sociale del religioso. E quindi sanno anche dare una loro lettura rispettosa della costruzione sociale del ruolo di teologi in un certo momento storico o di certe correnti teologiche rispetto ad altre. E io credo che questo discorso della costruzione sociale della religione sia una cosa importantissima, proprio perché la religione riguarda problemi di verità, riguarda problemi di salvezza, riguarda problemi di giustizia, che sono tutti temi coniugati da ogni società. Per cui la costruzione sociale della verità in Italia ha dentro anche la costruzione della verità per la parte in cui nella costruzione entra la Chiesa Cattolica. E così, adesso che vanno per la maggiore i processi, la giustizia ha anche a che fare con la costruzione, quella parte di costruzione sociale della giustizia che in qualche modo è ispirato, è esperita all'interno della Chiesa Cattolica, con i suoi membri, con i suoi tribunali, con la sua giustizia, non so se rendo l'idea. Ecco, io credo che la sociologia in questo senso abbia molti temi in comune, ma anche degli strumenti assolutamente propri, in cui appunto il senso del limite reciproco può rendere più vivace, come potrei dire, l'immaginazione di entrambi, sociologi e teologi, l'ipotizzazione appunto di temi comuni, perché questo secondo me è sempre importante. Un'ultima cosa volevo dire. Anche se stamattina, per esempio, Guber o ancora di più, soprattutto Gasparini, ha espresso alcune opinioni più dettagliate, alcune definizioni più dettagliate, diciamo, della identificabilità in qualche modo del futuro, io credo che, proprio anche per il fatto che molti altri non hanno parlato del futuro, il futuro sia effettivamente un grosso problema. E io credo che valga la pena di esserne consapevoli già oggi e di accettare, come si può dire, questa materia molto informe e molto delicata, così com'è, ecco. e di accettarla come provocazione, che per esempio mi sono trovato molto d'accordo quando Pierpaolo diceva, anch'io quando ci ho pensato all'inizio, dicevo, ma perché pensare sociologia e teologia di fronte al futuro? Ma pensiamo per esempio rispetto al tempo. D'altra parte, per esempio, mi sono trovato in sintonia con Franco Garelli quando dice, ma noi, di fronte all'evoluzione delle cose, viviamo all'esplosione di tutta una serie di differenziazioni, di nuove definizioni di confini delle esperienze religiose, ecco, e qui, per esempio, siamo di fronte a un presente futuro prossimo, in cui appunto il vivere e valorizzare le differenze diventa un'esperienza fondamentale, che di per sé è contraddittoria rispetto a una vecchia maniera di intendere la verità, l'unidimensionalità della verità o l'unidimensionalità della morale, delle regole di condotta. Allora io credo che se noi ci avviciniamo a maggio con questo senso della problematicità enorme del futuro e che forse il nominare il futuro c'è una provocazione, no, per far limitare una sensibilità su temi che sono di un presente che è in cammino verso il futuro, ma che è proprio una chiave di volta per andare verso il futuro, senza appunto occupare troppo tempo a cervellarci nel vedere se sono giuste le 515 equazioni del sistema o se ce ne vogliono 520, perché probabilmente c'è una meta, c'è un metamessaggio, non le 512 notizie che servono. Ecco, questo volevo dire. Grazie. Grazie di sangue, professor Mango. È quasi superfluo che io ribadisca che nel dialogo dobbiamo tener conto, parlando di teologia e sociologia, che è giusto parlare di teologie, non di teologia, e quindi di una varietà di sintesi e di cammini che, tra l'altro, mi pare il professor Prandi prima chiedeva il confronto tra queste teologie. Non c'è la teologia e una sola edizione di sintesi, proprio per le ragioni che credo anche i sociologi non si identifichino con la sociologia. E per quanto riguarda questo sguardo sulla realtà tra presente e futuro, mi permetterei sempre nel piccolo angolo che è di Donzani e mio, quello biblico, di ribadire dei criteri che noi troviamo ispirati da questa fonte primordiale della teologia e anche della lettura della realtà. Cosa potrebbe dire la teologia biblica? Quest'angolo allora parziale, ma non secondario per il teologo, cosa può dire, dare la teologia biblica al sociologo, quasi più che alla sociologia astratta? E più esattamente, cosa già la teologia biblica impone come criterio di disciplina nella ricerca teologica e nel programmare il futuro della ricerca teologica? A me pare di richiamare da questa fonte tre criteri o tre indicazioni fondamentali che certo regolano la corretta teologia o dovrebbe regolarla. Primo criterio, che lo sguardo tra presente e futuro, letto dal teologo biblico, è uno sguardo di grande rispetto, perché il presente nella confusione, nel dramma, molte volte ha un carattere eminentemente profondo, quasi misterioso. C'è il mistero del presente verso il futuro, più che non la piena possibilità di decifrarlo e di interpretarlo. In buon linguaggio biblico antico si chiamava massa e meriba, cioè prova e scuotimento delle sicurezze acquisite. Quando nasce massa e meriba? Nasce quando il volto di Dio, la religiosità nella sua crescita, quando il volto di Dio viene troppo strettamente coniugato con un modello culturale. A quel punto nasce la crisi. Non so se l'equivalente può essere cercato, ma certo è una disciplina rigida per la teologia. Non c'è coniugazione immediata, diventa idolo in pratica, quindi muore. Ancora nasce questo deserto quando l'esperienza del limite personale o collettivo toglie connessione rassicurante alla religiosità e nascono di nuovo crisi anche collettive. San Paolo userebbe qui almeno una sessantina di volte nelle sue lettere: e tolta ogni caucasis, ogni sicurezza all'uomo, quando dentro un cammino nella storia presuma di rendersi autonomo, le lettere famose ai Corinti. In ogni caso, questo tipo di esperienza, che obbliga quindi un estremo rispetto e a non aver fretta a chiudere, lo si ha quando Dio è più in là della religiosità prodotta e della religione che in pratica per un certo tempo viene vissuta. Penso alla crisi di Giobbe, molto significativa, e quegli interrogativi che riportava anche Don Capraro, quelli per esempio: ci sarà ancora fede su questa terra o la stessa carità rischierà di essere messa in crisi? E vorrei ricondurre a questo dato quindi un senso, almeno per il teologo biblico, da comunicare come criterio se serve, un senso di estremo rispetto per la dignità del tempo di crisi, da non semplificare, almeno per il teologo, in categorie facilmente spiegabili. Secondo criterio globale che colgo da questa di riferimento e che norma almeno la disciplina di teologia biblica, è credere alla persona umana ostinatamente, fino all'ingenuità, traduco così il versante biblico, fino all'ingenuità di dare più fiducia di quanto la persona non si meriti o la società si meriti. È un'altra delle sfide che disciplina la teologia e l'impedisce di, e se no sarebbe disonesta, l'impedisce di giudicare e di chiudere sulla storia di una persona o di una società. Sarebbe anche interessante anche questo dato approfondirlo, perché a mio avviso, almeno alla teologia, impone una seria, un serio controllo del suo procedere. Terza nota, che mi ha ispirato proprio anche il richiamo lo stesso di Don Giuseppe, ma che vorrei ribadire, è che la vera teologia della storia o sguardo sul futuro, specialmente dopo Gesù, è legata ai piccoli e agli anonimi. Non so come tradurlo in buone categorie della loro competenza di scienza sociologica, ma c'è un rifuggire dal protagonismo firmato e magari ingrandito per pensare al futuro. Anzi, c'è come sempre la paura dell'insidia, del mostro o dell'idolo in ogni ingrandimento e maggiorazione del presente. C'è più bisogno, mi pare che lui trascriveva, di piccoli che diventino soggetti e profeti. Lo trascriverei in linguaggio biblico. Le più grandi profezie, salvo un nome iniziale, sono tutte scritte da anonimi. Pensiamo a Isaia, la maggior parte del libro isaiano è una storia di anonimo consenso a una ricerca. Così Malachia, così Giona, così Abaco, così tutti i sapienziali, cioè gli esperti sul senso dell'esistenza umana. Mi parebbe di trarre, o quantomeno di far sapere, che sono criteri che ci nascono dalla Bibbia e che probabilmente possono avere delle equivalenze metodologiche anche per il versante sociologico. Grazie. Grazie Domingo per questo interessante e profondo contributo che ci stimola sicuramente. La parola a Buzzese. Come sociologo delle religioni ho avuto occasione di fare un'esperienza specifica dei rapporti che esistono tra sociologia e teologia. Da un lato, come diceva il professor Bulgalassi prima, ho trovato un mare di sociologia nelle riflessioni teologiche. All'interno degli stessi documenti pontifici sulla dottrina sociale della Chiesa, è inutile che faccio citazioni, vi sono capitoli interi di analisi della società contemporanea, che sono delle analisi che non sono sociologiche nel senso che non discendono da un panel di ricerche mirate in diversi settori, ma sono riflessioni, potrei dire, riflessioni sociologicamente rilevanti. In secondo luogo, la sociologia nelle riflessioni teologiche occupa un ruolo, direi quasi decisivo, all'interno dei movimenti religiosi. I movimenti religiosi hanno una loro riflessione sociologica implicita sulla società contemporanea e gran parte della loro strategia di inserimento o di disimpegno rispetto al mondo esterno discende da un'analisi sociologicamente rilevante, che però non è naturalmente configurata come tale, ma c'è per iscritto. In secondo luogo, sempre all'interno della mia personale esperienza, ma penso che sia l'esperienza di molti qui di noi che sono sociologi, la riflessione teologica l'ho dovuta incontrare per forza quando ho fatto sociologia dei fenomeni religiosi. Sono stato costretto a leggermi teologi, altrimenti non avrei capito nulla. E prima di me, in maniera di gran lunga migliore di me, l'hanno fatta molti altri, Weber probabilmente per primo, nel nostro ambiente. Ora quindi, che vi sia un rapporto fra sociologia e teologia, o meglio, che queste due scienze di fatto in determinate contingenze epistemologiche di studio si incontrino e di fatto una sia costretta a leggere l'altra, per cui io debbo leggermi teologi e i teologi debbono leggersi i sociologi se vogliono scrivere il capitolo terzo della determinata lettera, eccetera, eccetera, se c'è effettivamente questo intreccio mi pare che autorizzi a due conclusioni epistemologicamente interessanti. E naturalmente mi fermo qui, dico naturalmente enuncio queste due conclusioni e poi andiamo avanti con il dibattito. Per la teologia si tratta di un'uscita da una sociologia di comodo, da una sociologia di comodo, perché molto spesso dietro le parti sociologiche dei discorsi teologici, dietro, diciamola con una parola, la sociologia delle realtà terrestri, se mi permettete questa confusione di termini, dietro questa riflessione sul mondo contemporaneo, una volta che non è scientificamente controllata, di fatto non si fa che confermare ciò che era presente già nelle premesse, che è qualcosa che anche noi facciamo come sociologi, ma sbagliamo quando lo facciamo. Quindi io penso che essere coscienti di quanto pesi l'analisi sociologica implicita nel discorso teologico possa sicuramente essere un elemento di progresso epistemologico all'interno della teologia stessa, primo punto. Secondo punto, e chiudo qua, per la sociologia in sé c'è una, diciamo che c'è un salto di qualità, se mi permettete, una sorta di direzione imboccata in maniera definitiva, una fuoriuscita definitiva dal riduzionismo sociologico. Perché? Perché nel momento stesso in cui, come sociologo delle religioni, studiando un fenomeno religioso, non solamente devo ascoltare gli attori sociali, ma devo anche rendermi conto di quello che Enzo Pace stamattina definiva come il sapere riflesso dei teologi sulla loro scienza religiosa, nel momento in cui io devo tenere conto di questo, di fatto, a partire da quel momento, il fenomeno che studio non è più riducibile a... Non è più riducibile ad essere, a non essere che, questa fraseologia che molto spesso qualcuno ha adoperato quando ha studiato i fenomeni sociali, no? Come una sorta di epifenomeni che nascondevano qualcos'altro, quindi a non essere che, la dimensione religiosa non è che, ecco, nel momento stesso in cui io, nello studio di questo fenomeno, devo fare riferimento ai teologi, di fatto ho compiuto una scelta epistemologica ben precisa e mi pongo definitivamente fuori da qualsiasi ipotesi riduzionista in campo sociologico. In questo senso penso, uno, non solo che l'intreccio tra teologia e sociologia esista, due, penso anche che il rendersene conto non possa che far bene a entrambi. Grazie professor Abruzzese. Su questa linea mi venivano, e mi prendo la parola io per un minuto, mi venivano degli interrogativi che sottopongo a voi come ulteriore riflessione. Che compito hanno nel pensiero della Chiesa storia e statistica che sono quasi invenzioni della Chiesa? Cioè la Chiesa ha inventato gli archivi ecclesiastici, anche se Cardinal Arzini mi diceva silenzium et archivium, e la Chiesa ha inventato la statistica. Dicevo ieri sera a tavola che quando il Piovano di San Giovanni in Firenze, attraverso l'uso di un pisello verde e di un pisello giallo, previde Mendel, scoprendo che nascevano 105 maschi ogni 100 femmine, la Chiesa ha coltivato la statistica alla storia. L'uso che se ne fa? Nei suoi intendimenti. Era un uso apologetico e basta? Oppure potrebbe costituire come diceva Toniolo, potrebbero costruire le stampelle su cui Atlante poggia il mondo di un ulteriore passo in avanti. Da qui viene fuori il problema del ruolo che la sociologia ha nell'azione pastorale, che è un tertium datum incomodum, perché il ruolo della statistica e il ruolo della storia nell'ambito della Chiesa ha una lunghissima tradizione, tanto non interviene nell'azione immediata, interviene esposte. Ma la sociologia che invece si preoccupa di, in qualche maniera, aprire lo spiraglio sul futuro, e questo introduce un elemento improprio nel discernimento dell'ecclesia e della gerarchia, e per questo nascono anche le difficoltà di ordine teologico. È una provocazione che lascio perdere subito qui. Chi vuole intervenire? Ah, ecco, un giovane. Giovane docente. Abbiamo anche qualche giovane. Giovane docente... teologo della facoltà di Padova. Battocchio, io insegno teologia fondamentale dogmatica. Dove? A Padova, in seminario. Di fronte al titolo del dossier mi sono chiesto perché un teologo si pone il problema del futuro. E rispondo per motivi teologici, per lo sfondamento storico provocato dalla risurrezione di Cristo. Perché un teologo cerca il confronto con la sociologia? E la risposta che mi sono dato ancora una volta è anzitutto per motivi teologico-dogmatici, per quella che, semplificando molto, ci potrebbe dire la logica dell'incarnazione. Se è vero che la rivelazione avviene nella storia e la rivelazione non si esaurisce in un punto della storia, non possiamo prescindere da essa. Però capisco che anche questa è una scelta che anche nella teologia del nostro secolo non è stata l'unica. Forse un von Balthasar o una scolastica baltasariana potrebbe non essere d'accordo con questo tipo di impostazione. E poi il secondo ordine di motivi teologico-pratici. Un discorso già accennato dal professor Trentin. Rahner a questo proposito parlava di una esigenza di analisi socio-teologica nel handbook di pastorale, di teologia pastorale, come formalità propria della scienza teologico-pastorale. Analisi socio-teologica, dove a mio avviso il teologico qualifica l'analisi. Quindi concludo dicendo che mi sembra difficile per un giovane teologo così spostarmi da un'area del campo teologico, ossia vorrei riservarmi il diritto di costruire teologicamente il sociale, cioè una lettura della società, un progetto di società, chiedendo però ed esigendo che questo venga continuamente verificato o falsificato da altre discipline, quale la sociologia, non solo. Ringraziamo questo giovane teologo e siamo in attesa di nuovi interventi e vi ricordo che dovremmo avere teoricamente, abbiamo un'altra ora. Teoricamente, perché noi No. Teoricamente abbiamo 37 minuti, cioè fino alle 16.30. Come non ho dormito, probabilmente ho scambiato tempo. No. Comunque, abbiamo allora 37 minuti. Sì. Che possiamo dedicare. Possiamo dedicare ancora interventi. Nel caso che gli interventi ci siano, certo. Perché nulla ci impedisce poi, a un certo momento, avendo esaurito la batteria degli interventi, di prenderci anche una boccata d'aria, che è un'ipotesi che io per assurdo lancio, nel caso che manchi la materia prima del nostro intervenire. Allora, no, e tenendo conto soprattutto che poi l'appuntamento con il pubblico è per le ore 17, in occasione di un incontro, la presentazione del volume Immagini della religiosità in Italia, ecco, del professor Burga Galassi, a Colobos, Burgo Galassi, Prandi e Martelli, sempre qui in questa sala. Comunque vorrei riprendere, ringrazio il professor Battocchio per aver citato Karl Rahner, il quale in realtà nel suo Handbuch der Pastoral Theologie, che è un grosso insieme di volumi, propone l'analisi socio-teologica della situazione, però comprendendo per socio-teologica l'apporto di entrambe queste discipline, della sociologia e della teologia. Cioè, se il maestro accetta la dignità parallela delle due discipline, noi come discepoli non dobbiamo privilegiare magari l'aggettivo teologico che qualificherebbe l'analisi piuttosto che il sociologico, perché ho sentito altri teologi pastoralisti addirittura citare il runner cancellando il socio, perché il socio fa sempre un po' di problema, no? E quindi l'analisi teologica della situazione, in cui il teologo praticamente espone la sua valutazione dei fatti raccolti attraverso le ricerche empiriche secondo la il vecchio modello della sociologia ancilla teologie, che offre gli strumenti di ricerca. Ecco, in realtà Karl Rahner, in quella sua intuizione forte, proponeva proprio l'analisi socio-teologica come un'analisi razionale carismatica assieme, in cui la razionalità propria della scienza empirica e anche della riflessione teologica venisse in qualche modo animata dal carisma inteso come Spirito Santo che anima la Chiesa, perché l'analisi socio-teologica della situazione è il primo passo per produrre quello che è il progetto pastorale, e lui nella sua teorizzazione della teologia pastorale vede nella produzione del progetto pastorale il proprio della teologia pastorale, un progetto che poi deve essere attualizzato e valutato secondo la scaletta metodologica del progettare, agire e valutare. Ecco. Ma è in questa sinergia, insomma, di sociologia e di teologia che è possibile produrre un progetto. È una sinergia che, prima che essere, come dire, accademicamente analizzata a livello epistemologico, esiste già nell'operatore teologo, che è anche contemporaneamente sociologo in quanto relazionato ad altre persone, sociologo credente che è anche contemporaneamente teologo, pastore il quale è operatore nello stesso tempo sociologo e teologo, cioè è una sinergia, direi, interno al soggetto stesso, insomma, che utilizza diverse competenze per poter produrre un elemento di conoscenza. Però, e così chiudo, quella analisi socio-teologica della situazione mi auguro che rimanga tale per tutti, cioè senza privilegiare un aggettivo sull'altro. Ecco. Mi domando se ai fini dell'efficacia dell'incontro di maggio non sarebbe stato forse ottimale che ogni relazione di un teologo fosse stata seguita poi da, per esempio, due discussion, tra cui un sociologo, perché in quella maniera probabilmente veniva molto meglio evidenziato i tratti comuni e anche le discordanze metodologiche, ma questo naturalmente è una... Ci pensiamo. Lo stesso... Viceversa. Esatto, sì. Chi vuole ancora intervenire? Venga. C'è Don Remo Vanzetta, docente di sociologia e di psicologia della religione al seminario teologico di Trento, docente di sociologia della religione e psicologia della religione. Lo scomunichiamo subito perché non fa parte della nostra sezione. No, è il delegato vescovile. No, non dire proprio quello perché sono incompetente in molte cose. Cioè, il numero 3 della diocesi di Trento. No, qui siamo tutti. Dopo, no, giusto, no. Dopo il vicario generale c'è Don Remo Vanzetta. Ma non sono, 3. Sono impegnato nella pratica. I miei studi sono fatto scienze dell'educazione, tra l'altro anche un corso con milanesi, dai salesiani, per cui ho un po', come dire, la tendenza a prendere da tutte le parti e da tutte le scienze, proprio per l'impostazione epistemologica della facoltà era scienze dell'educazione, come qui scienze sociali, di prendere e di orientare alla pratica, per cui Io credo, ma mi sembra dire cose ovvie, però non so. E a livello teorico le cose sono molto distinte, la teologia e la sociologia. E quindi ognuna deve andare avanti con i suoi ferri, con i suoi metodi. Nella pratica poi le cose per forza si incontrano. Però comunque mi sono chiesto che cosa può dare... Per forza vuol dire nonostantibus. Devono incontrarsi perché possano, insomma, voglio dire, nella mia pratica pastorale o nell'educazione io devo tenere presente tutto l'uomo, tutta la persona, e quante più cose so, mi vengano dalla teologia, mi vengano dalla sociologia, tanta più probabilità ho di avere qualche risultato, insomma, nella mia azione. Ma mi sono chiesto invece in maniera forse più profonda che cosa può dare la teologia alla sociologia e cosa può dare la sociologia alla teologia. Ricordo di aver partecipato a un seminario all'università qui qualche anno fa, era in rapporto al territorio, era Gubert la guida di questo seminario di ricerca. E ho fatto compagnia a un professore tedesco, Helle, mi pare, di Monaco, il quale mi ha dato, abbiamo parlato a lungo, in quel tempo mi occupavo molto di famiglia, e mi ha fatto venire in mente questo anche il discorso di Donati stamattina, ha fatto uno studio in cui collegava l'idea di Dio e la struttura familiare nelle varie culture. A una cultura matriarcale corrispondeva un dio madre e così via, insomma. Allora mi è venuta questa idea, credo che la sociologia possa in qualche modo aiutare e dare degli strumenti anche alla teologia per capire meglio i suoi oggetti di studio, e viceversa anche la teologia dare il linguaggio per spiegare i fenomeni sociali alla sociologia. Il linguaggio non sono solo parole, ma è questo che dico, che forse sto dicendo delle cose ovvie e che non voleva dire, ma insomma il linguaggio molte volte che si usa nella sociologia, nella vita sociale, nella spiegazione dei fenomeni sociali, nella politica sono linguaggi presi dalla Bibbia pari pari, alcuni li hanno nominati anche stamattina, sia dal carisma, il profeta, il popolo, ma insomma la stessa... Esodo e così via, insomma. Per cui credo che la teologia possa dare il linguaggio, che è qualcosa di più che la parola, ecco. Comunque volevo esprimere soprattutto un desiderio nei confronti del convegno, sempre sulla scia di quanto Donati diceva stamattina, e me lo chiedo come prete: se voi ci diceste che futuro ha non tanto la religione in generale, quanto la Chiesa cattolica, se si può, no, con tutte le... E eventualmente che cosa sostituisce questo arretramento della Chiesa cattolica, se ci sarà? Resta il vuoto, oppure sarà sostituito dalle sette, da tutto quel mondo magico, superstizioso, o dalle sette, da religioni, parareligioni o dall'islamismo, che anche il discorso dell'islamismo, per la verità, volevo ridurre l'attenzione, il campo del convegno alla Chiesa cattolica, e dopo mi accorgo che invece forse bisognerebbe poter dire che cosa eventualmente si sostituirà a questo, ecco. Che forse allarga di nuovo il discorso un'altra, certo, volta. Grazie a questo ulteriore intervento. Grazie. Grazie. torniamo a vedere gli ultimi e i primi, per una palingenesi religiosa. Ecco, bravo. Faccio una domanda, se, cioè mi chiedo, non so la risposta, l'interrogazione sul futuro è un modo nuovo per dire un problema vecchio, cioè chiamare la secolarizzazione con una parola nuova? Il problema, di fatto, il futuro della religione si chiamava secolarizzazione fino a... si chiama desecolarizzazione, ma insomma, per non, come insegnano i filosofi, non moltiplicare gli enti, se ne necessitate. Domanda se non sia questo, insomma, il problema, che ha tante risposte, viene posto in modo diverso, ma forse alla fine, per non moltiplicare gli enti, mi chiedo se non sia quella domanda lì, insomma, in qualsiasi modo venisse posta. Rapporto fra sociologia e teologia, e sì, infatti, adesso io ho lasciato i miei appunti di là, ma faccio un po'... Capraro conclude alla fine su quattro ipotesi, non mi soddisfavano nessuna, perché ci sono problemi. Dunque, primo punto, la sociologia non c'è, e adesso ho capito che nemmeno la teologia c'è. Esistono le sociologie, qui avete sentito, basta approfondire un attimo, ci sono diverse impostazioni sociologiche, non c'è una unica impostazione sociologica che è stata espressa dai sociologi, anche perché sono tanti e perciò è inevitabile probabilisticamente, ma insomma ci sono anche delle diversità. Mi pare di capire che ci siano anche nelle teologie, indipendentemente dall'oggetto, se è dogmatica o biblica o pastorale, ma pur se hanno lo stesso oggetto, ci sono diverse impostazioni disciplinari. Perciò mettiamo un po' al plurale questo discorso. Allora, c'è una qualche sociologia, teologia o qualche teologo che ha interesse ad avere il sociologo, perché se deve appunto progettare la parrocchia, allora pur sapere la gente come vive, cosa pensa, come è fatta la famiglia, perché nascono meno bambini, se vengono gli immigrati, cosa succede con questi che sono musulmani, non sono musulmani, faccio un dialogo ecumenico con questi che vengono dalla Tunisia o no? Perché anche questo è un problema, mica soltanto con i protestanti, se vanno avanti così le cose, se le pigliamo sul serio le questioni. Questo lo capisco. Non tutti i teologi hanno questo interesse, alcuni meno direttamente. Ciò che vorrei evitare è che si ritornasse a una posizione di pura strumentalità, e cioè che una sociologia qualsiasi delle tante possibili venga utilizzata, come dire Ancilla, dai primi rudimenti poi ci pensiamo noi, questa è l'ipotesi che c'è. Come si faccia a evitarlo non lo so, mi chiedo anche perché lo dico, sarà per un aspetto di dire non vorrei essere espressione di Ancilla di nessuno, ma questo può essere l'orgoglio che me lo fa dire, non è, può anche non essere, ma forse può essere anche argomentato a livello scientifico, anzi tutto oggi si è cercato di argomentare a livello scientifico le due posizioni, le tante posizioni possibili, e si è visto che ci sono argomentazioni per dire ciò. Un altro punto che vorrei dirvi è questo, stiamo attenti, che oggi siamo di fronte a un grandissimo problema di linguaggio, e qui sarei di diverso parere rispetto a lei, perché è vero che si usa la parola carisma, ma un sociologo la può usare in termini weberiano, che non è quello che si è detto qui che si intende con carisma. O non sempre è la stessa cosa, ma il problema diventa molto serio se si va di più, perché c'è un vero problema di comunicazione. Se prendiamo sul serio, penso che abbia ragione, ne abbiamo parlato prima con Garelli, il discorso della grande differenziazione delle culture, la compresenza in noi stessi, in un gruppo stesso, di più ipotesi culturali di per sé contraddittorie che non vengono mescolate e vivono lo stesso bene o male assieme, siamo di fronte a un grandissimo problema di comunicazione, cioè di linguaggio. Quello su cui dobbiamo prima di tutto intenderci è il sistema comunicativo che usiamo. Quando si fanno la domanda «Lei crede in Dio?», aveva senso 40 anni fa, forse, ma non ha senso oggi, perché che cosa vuol dire Dio oggi, se è vero che c'è quello che abbiamo detto, se abbiamo descritto bene il fenomeno, più o meno bene il fenomeno, che senso ha? Quando si parla di religione, di chiesa, eccetera, ma che senso ha? Cioè si tratta che probabilmente ci intendiamo, ma o ci intendiamo ciascuno intendendo cose diverse, ma capendosi lo stesso, è il paradosso della comunicazione, si può agire lo stesso intendendo cose diverse e si hanno anche i risultati positivi ugualmente. Oppure si può anche, chissà quanti sono i meccanismi possibili, eh? E allora il problema prima di tutto preliminare diventa in questa specie di Babele delle culture anche la Babele del linguaggio. Ai tempi in cui faceva ricerca a Brugalassi era più facile perché si pensava, e forse era vero, c'era meno questo problema qua, per cui ci si capiva più facilmente. Se invece oggi ce n'è di più, la prima cosa da fare, anche metodologicamente, è di studiare il sistema comunicativo, il sistema del linguaggio usato per dire le cose, che non sempre sono le cose a parità di linguaggio, ci sono le stesse cose, a parità di cose c'è lo stesso linguaggio, e eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, e questa è una difficoltà dell'uso da parte dei teologi della sociologia, perché si corre il rischio di leggere i libri, prendere quello che sembra che faccia comodo, o per controbatterlo o per utilizzarlo, e si passa avanti, ma forse è un'apparente convergenza, oppure una convergenza che non sappiamo bene su cosa sia fondata. Ecco, per cui sì, questo. Ringraziamo il professor Guizzardi e chiudiamo